Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? C'ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Domani giovedì 1 maggio, quindi festa dei lavoratori, che noi vogliamo affrontare nell'aspetto più triste e spinoso, ovvero quello delle morti sul lavoro. Incontro tra musica, letteratura, illustrazione, e questo avviene su un terreno molto difficile, pesante. Infatti parliamo del libro Era bello il mio ragazzo di Giuseppe Ciarallo, ovvero sia Morti sul lavoro, canzoniere del dolore. Di che cosa si tratta? Ce la introduce la professoressa Silvia Bertasti, che poi porta il microfono lo stesso Giuseppe Ciarallo. Non è un saggio, è, come scrive l'autore sulla copertina, un canzoniere, cioè è una raccolta di canzoni. La particolarità, la prima particolarità, perché ce ne sono due, è il tema che hanno in comune queste canzoni, che non sono canzoni d'amore, non sono canzoni per bambini o roba del genere, ma è la morte sul lavoro, quindi le morti bianche. E la seconda particolarità del libro è che praticamente ogni canzone è accompagnata da una vignetta, non la voglio chiamare illustrazione perché non è un'illustrazione, da un disegno, diciamo, fatto da un grande disegnatore, tra i fumettisti e i disegnatori e i vignettisti più importanti italiani attualmente in circolazione, molti dei quali sono poi quelli del nostro calendario. Ne sono tantissimi, ci si va da Lido Cantimori a Mauro come Staino, cioè ci sono tutti, Davide Morena. Non le chiamo illustrazioni perché non è che illustrino le canzoni, ma questi disegnatori hanno espresso il loro modo di vedere il problema gravissimo della morte sul lavoro. Ognuno a modo loro, chi in maniera più, non vorrei dire comica per carità, ma di umorismo nero se vogliamo, chi invece in modo più serioso, chi in bianco e nero, chi a colori, quindi ne risulta un libro anche molto importante dal punto di vista grafico, molto, molto interessante anche da vedere. L'autore è Giuseppe Ciarallo, il titolo è Era bello il mio ragazzo, che sarebbe poi il titolo di una canzone delle canzoni del testo, una canzone che presentò Anna Identici a un remoto festival di Sanremo, riuscendo a non arrivare in finale, e l'editore è Pendragon. Allora, com'è fatto il libro? Io non le ho contate, ma saranno più di un centinaio, secondo me, di canzoni, un centinaio senza dubbio di canzoni che lui ha reperito. Le canzoni sono presentate in questo modo, c'è il testo intero, poi c'è il commento di Giuseppe Ciarallo e due righe sull'esecutore. Ora, quando l'esecutore è Enzo Iannacci o Francesco De Gregori o Lucio Dalla, le due righe sono anche superflue. Ma quando l'esecutore, io non mi ricordo neanche i nomi, comincia a essere servi disobbedienti, sì, sono... oppure, non lo so, via di questo passo... certe volte mi è capitato di leggere appunto in fondo e si sono trovate ulteriori notizie su questo gruppo. Ok, ciao Beppe, senti, io volevo chiederti prima di tutto, ovviamente la domanda più ovvia, da dove ti è nata l'idea di un canzoniere sulle morti sul lavoro? Perché sì, certo. Perché non fare tu sei uno scrittore, perché non fare un romanzo, una raccolta di racconti, un saggio, proprio un canzoniere? Ma in realtà nella raccolta di racconti collettivi Lavoro Vivo, edita da Allegra nel 2012, mi sembra, c'è un mio racconto in effetti che parla di mio padre, ma più di mio padre come operaio che rappresenta un po' tutti gli operai, che ha avuto una storia di immigrazione, di incidenti sul lavoro, eccetera. Per cui ho già affrontato la tematica anche dal punto di vista prettamente letterario. Comunque l'idea del canzoniere mi è venuta nel 2021, quando la rivista di cui sia tu che io eravamo redattori, Zona Letteraria, appunto facemmo un numero, il numero 6, che era dedicato alla musica impegnata oggi. E quindi ci chiedemmo, per fare gli articoli di quel numero, appunto ci facemmo la domanda se i cantautori, i musicisti degli anni 60, 70 e 80 avessero lasciato passato il testimone a dei musicisti delle generazioni successive, e nello specifico i musicisti del questo primo scorcio di terzo millennio. Sotto il tacco macinante sai della distribuzione, le fabbriche le hanno trasferite ed il prodotto si è esternalizzato, lontano sulle strade inferocite dove privo di speranza il lavoro è più sfruttato, però le merci altrove fabbricate fino al tuo frigo devono arrivare e corrono su strade gli autotreni inarrestabili e feroci, non si vogliono fermare. Certo molto molto molto molto male, così che nella notte di Piacenza un egiziano è stato calpestato, per lui non c'è più l'ombra di clemenza, quel picchetto era una sfida al nostro vivere beato. Beata la coscienza della notte, beato il nostro vivere civile, beato il nostro frigo che si inghiotta in questo residuale senso nell'umanità servile. È chiaro nella notte piacentina, è chiaro nel crepuscolo italiano, è chiaro per l'Europa che si inchina, quel picchetto è stato un sogno sanguinoso quanto vano. Per arrivare a comporre un canzoniere così corposo, avrai fatto un lavoro di ricerca enorme. Come ti sei mosso? Certo, certo, appunto, partendo da quell'articolo che scrissi appunto per nel maggio del 2021 e che avevo deciso di concentrare sulla tematica specifica delle morti sul lavoro e per il lavoro. Subito dopo mi venne in mente che in un breve articolo non avevo detto assolutamente tutto, anzi avevo detto molto poco, e che la tematica sicuramente meritava uno sviluppo maggiore. E quindi mi venne in mente di raccogliere il maggior numero possibile di canzoni, e sono arrivato fino a 73, di cui 70 italiane, una statunitense, una portoghese, una spagnola. E quindi creare questo canzoniere con i testi delle canzoni, delle mie annotazioni storico-critiche, e quindi è un lavoro che ho di ricerca scrupolosa su libri in rete, interviste a cantautori che sono riuscito a contattare, eccetera, che mi ha portato, cioè che mi ha durato circa 3 anni, ecco, diciamo dal maggio del 2021 fino al settembre del 2024. E l'idea di mettere le illustrazioni, non chiamiamo, i disegni dei vignettisti e dei, certo, degli illustratori, quella ce l'hai avuta fin dall'inizio? No, perché direi subito dopo. Appena ho cominciato a lavorare alla raccolta dei testi, mi è subito venuto in mente, visto che io frequento quotidianamente l'ambiente della satira e del disegno satirico, collaborando io con riviste appunto di satira politica e conoscendo moltissimi illustratori, disegnatori, fumettisti, eccetera, mi è venuto quasi subito in mente di unire ad ogni canzone un disegno che raccontasse, secondo lo stile e la sensibilità di ogni illustratore o illustratrice, il mondo appunto del lavoro, ma soprattutto dello stilicidio che appunto quotidianamente colpisce lavoratori e lavoratrici da sempre. Senti, allora, nel tuo canzoniere ci sono brani di autori molto famosi, come appunto Iannacci, che abbiamo appena ascoltato, e ci sono brani di personaggi di cui tu stesso dici non sono riuscito a trovare niente di più. Come li hai pescati questi appunto, quelli della seconda categoria, quelli che sono pressoché sconosciuti? Andando in rete, ovviamente pescando dalla rete, oppure banalmente rivolgendo domande ad amici: conoscete qualche canzone che parli di questo? Allora, degli amici napoletani, per esempio, mi hanno detto: guarda, c'è questo musicista locale, sconosciuto praticamente, che ha fatto questa canzone alla morte del suo amico che è morto fulminato sul posto di lavoro. Quindi sono andata a ripescare, è stato un lavoro proprio certosino di ricerca, soprattutto in rete, ma ripeto, anche con il passaparola, mi è servito molto il passaparola. Ecco, invece, per quanto riguarda quelle degli autori importanti, come ti sei posto di fronte a questi personaggi? Non parlo tanto di Iannacci, che era un genio a parte, diciamo, ma di fronte a questi personaggi che fanno parte un po' anche del mondo, non so come dire, del bel mondo, diciamo, della canzone italiana. Sto pensando per esempio a Pablo di De Gregori, oppure una cosa che mi ha colpito moltissimo: come tu inizialmente massacri una miniera dei New Trolls, salvo poi salvare qualcosa alla fine. Una canzone che io adoro, per cui quando l'ho letto ci sono rimasta malissimo. No, infatti la mia intenzione non era quella di massacrare, ma mi interessava porre una domanda, no? Così come la stessa Anna Identici, fino a Era bello il mio ragazzo, aveva fatto la classica canzonetta italiana da Sanremo, eccetera, per poi avere una svolta proprio nel momento in cui presenta Sanremo quella canzone politica fortissima di denuncia. La stessa cosa mi chiedevo appunto per In Trolls. Tra l'altro, Una miniera è una canzone che anche io ho amato tantissimo, anche se poi ho preferito ovviamente la svolta prog del gruppo, no? Però mi piaceva moltissimo, ma in effetti Una miniera non è una canzone proprio di denuncia, rimane nell'ambito della canzone d'amore, di quelle appunto che sono molto molto tipiche, no? nel mondo appunto del Sanremo o della canzone italiana. Però insomma mi interessava, ho detto va bene, allora a questo punto qua significa che anche la canzone meno impegnata può occuparsi quantomeno di questioni importanti, questioni sociali, eccetera. Non c'era nessun intento di massacrare, no, certo, nella canzone dei New Trolls, che ripeto sono un gruppo che ho amato tantissimo. Senti, ma se tu dovessi fare proprio una playlist, quali sono i pezzi che ti hanno colpito di più? Ma sicuramente tutto Ivan Della Mea. Uh-huh. Poi amo ovviamente, anche se una canzone classicissima, Gian Maria Testa. Sì, che poi non è sua. No, certo, chiaramente una canzone degli anni 30 addirittura. Sì. E poi Enzo Avitabile con Guccini, ecco. Cioè. Poi metto anche i miei amici Marco Rovelli e Alessio Lega. Le case, le pietre ed il carbone tingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio. Nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, le mani, la fronte, hanno il sudore di chi muore, negli occhi, nel cuore, c'è un vuoto grande più del mare, ritorna alla mente, il viso caro di spera questa sera come tante in un ritorno. Don't you ever stop. Si è tenuto alla Sala Borsa di Bologna un interessante convegno sui musei delle scuole. Molti partecipanti, tra questi abbiamo scelto un segmento di intervento del professor Yuri Meda dell'Università di Macerata, ma andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta. Possiamo dire innanzitutto che esistono varie tipologie di questi musei. Per esempio, sicuramente quelli più antichi, penso addirittura ai primi nati negli anni 90, addirittura uno alla fine degli anni 80, sono i musei universitari della scuola e dell'educazione. E noi in Italia, vi devo dire, abbiamo alcuni esempi davvero luminosi da questo punto di vista. Pensate che il prossimo anno a Roma, nel marzo del 2025, il Museo dell'Educazione di Roma festeggerà i suoi 150 anni. In realtà c'è una storia antichissima dietro che poi è stata ripresa, diciamo così, proprio negli anni 80, grazie anche all'intervento di Mauro Lenghi. Ma è una storia che davvero va fino indietro, fino nell'Ottocento. E poi, sulla scia anche di queste esperienze, piano piano, altri atenei, come per esempio l'Università di Padova, ha deciso di accodarsi e costruire anch'essi il proprio Museo dell'Educazione, facendo leva, logicamente, sulla propria tradizione pedagogica che veniva anch'essa direttamente dalla fine dell'Ottocento. E progressivamente anche l'Università di Macerata, anche l'Università del Molise, per esempio, si sono messi in scia e attraverso delle donazioni importanti che sono state fatte, mi piace sottolinearlo, soprattutto da privati, in larga parte da ex maestri o pedagogisti, hanno potuto realizzare i loro musei. Ma i musei della scuola non sono solamente quelli universitari. Per esempio ci sono musei della scuola che sono promossi dalle stesse scuole, o che sono promossi dalle associazioni culturali, o ancora che sono promossi dalle amministrazioni comunali. Per esempio un museo ormai abbastanza antico che abbiamo in Italia promosso dall'amministrazione comunale è quello molto bello di Bolzano. E qui non posso non citare e plaudire all'intervento che l'amministrazione comunale di Bologna ha deciso di fare proprio attraverso la valorizzazione dello stupendo, da noi conosciuto ormai da anni, Museo Bombicci, attraverso le ricerche di Mirella D'Ascenzo, ma anche attraverso la valorizzazione che nel corso del tempo ne è stata fatta. Anche questi musei sono logicamente un pezzo importantissimo del patrimonio storico educativo e vedremo che poi la loro particolarità, cioè quello di essere dei musei locali, ci pone alcuni problemi. Infine, mi piace sottolineare come c'è un'altra tipologia ancora, che è leggermente diversa da quella che abbiamo detto fino adesso, a questo momento, ma che ci apre verso un'ulteriore categoria museografica, che è quella delle scuole-museo. Ebbene, qual è la differenza tra il museo della scuola e la scuola-museo? Il museo della scuola è un museo che logicamente viene promosso da qualcuno per la valorizzazione del passato scolastico. La scuola-museo è una scuola che viene musealizzata, cioè una scuola che viene presa così com'è, una sorta di diorama che viene gigantito, viene reso a misura d'uomo, appunto, e sostanzialmente va a congelare nel tempo così com'era nel momento della sua attività, per le motivazioni logicamente che poi sono state considerate dai suoi promotori importanti, per ritenendola paradigmatica evidentemente di un qualche intervento di carattere educativo, e quindi diventa una sorta di macchina del tempo nella quale noi ci caliamo, andiamo al suo interno e ritorniamo in quella scuola esattamente come era nel passato. Ad esempio, ci sono delle scuole bellissime, meravigliose, venivano chiamate scuolette Beckwith, che si trovano nelle valli valdesi, che ancora oggi esistono. Sono delle scuole rurali costruite da questo benefattore Charles Beckwith e che nel corso del tempo la comunità valdese ha valorizzato in questi praticamente sperduti territori delle valli valdesi per mantenere un presidio culturale sul territorio e che svolgono una funzione fondamentale proprio per preservare in qualche modo la memoria degli interventi educativi molto forti che furono fatti in quel contesto nel corso tra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. Abbiamo nel corso di questi anni, dal 2014 ad oggi, censito circa 66 musei in tutta Italia e questo, vi devo dire, è un patrimonio enorme. Quanto questo sia complicato, perché logicamente andare a censire sul territorio queste realtà implica comunque fare un'attività di scavo importantissima, perché non sempre queste realtà hanno visibilità, non sempre tutti hanno un sito web e quindi andiamo in internet, mettiamo Museo della Scuola in Google e pac, ci salta fuori tutto questo elenco. 66 musei della scuola con le caratteristiche diversificate che vi ho elencato sono quindi un patrimonio davvero molto importante, che fa vedere come nel corso del tempo, soprattutto a partire dal 2000, perché negli anni 90 e 80 è vero, come ho detto prima, che erano nati i primi musei, ma perché negli ultimi 20 anni sostanzialmente queste realtà hanno continuato a nascere un po' ovunque. Siamo soddisfatti di queste definizioni, di questa categorizzazione che abbiamo proposto? Guardate, in effetti su questo c'è un dibattito storiografico molto ampio. Per esempio ci stiamo chiedendo se in realtà anche i musei scolastici, cioè quelli che conservano le collezioni storiche di materiali didattici conservati presso tutte le scuole italiane, soprattutto, devo dire, le scuole superiori, possono essere iscritti all'interno della categoria dei musei della scuola. Oppure, per esempio, ce l'avrete presente, se siete andati in giro a fare qualche visita, per esempio, in alcune aree del nostro paese, magari passando per un piccolo museo demoetno-antropologico, avete presente i musei della civiltà contadina? Ecco, magari vi potrà essere capitato, a noi è capitato molto spesso, di entrare all'interno di una delle sale del museo e trovare la ricostruzione di un'aula scolastica. Ma allora, anche quello è un museo della scuola? Ecco, queste sono tematiche che ci stanno interrogando, che ci stanno ponendo un problema dal punto di vista della definizione di che cosa sia. Poi, diciamocelo subito, bisogna passare dal livello teorico a quello pratico, insomma, in qualche modo. Però che cosa siano esattamente questi musei e quando e quali siano più titolati a raccontare il passato scolastico è un problema sicuramente della contemporaneità. Ma insomma, il museo della scuola alla fine che cos'è? Il museo della scuola non è sicuramente unicamente un luogo di conservazione del materiale scolastico storico utilizzato nell'ambito di iniziative scolastiche nel corso del passato. Non è unicamente questo. Il museo della scuola è allora piuttosto un luogo di rappresentazione e di interpretazione critica della scuola, ma diventa tale nel momento in cui siamo in grado di promuovere tutta una serie di iniziative. Per esempio, un museo della scuola, per essere anche questo, e quindi non solamente un luogo di conservazione, deve essere fondato su una scientificità della ricostruzione storiografica che è in esso proposta. Ci deve essere una periodizzazione chiara, soprattutto per quegli allestimenti transcronologici che propongono una storia della scuola che va dall'Ottocento fino al Novecento e dove non ci possiamo permettere di sovrapporre livelli temporali o, per esempio, essere poco precisi sulla determinazione delle caratteristiche della scuola fascista piuttosto che di quella prefascista o postfascista. Quindi un livello di scientificità molto elevato. Con la colonna sonora di Una notte al museo noi ci congediamo con la nostra trasmissione, come sempre appuntamento la settimana prossima, stessa frequenza, stesso orario, e per riascoltare tutte le trasmissioni ricordiamo che l'indirizzo è ilpioniere.org, ovvero sia radiotafugico.it. Ciao a tutti.